Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 34, siamo tornati. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. We are back! Ebbene sì, come va? Dai, va bene, purtroppo due sconfitte che ci hanno... ci ha fatto star male, sinceramente, quindi volevo dire, però vederla nella parte positiva, siamo 6-2, abbiamo perso con due undefeated team in casa loro, ci hanno massacrato più che perso, però beh, vabbè, oddio, siamo ancora primi nella division, e come ho detto lunedì ad altri con cui ho parlato, anche a te penso, per fortuna c'è il tempo e il talento per venirne fuori, insomma. Mi permetto una cosa sola, all'inizio podcast, 30 secondi così per commentare la situazione del gruppo, di cui mi dispiace, ok? Diciamo il nome del gruppo, perché magari c'è qualcuno che ci segue ma non sa neanche del Green gruppo. Bay Packers Fan Italy, esatto. Ok? Che è il gruppo italiano dei Green Bay Packers, fondato da Vincenzo, Carlini e da me, 5 anni fa ormai mi pare, anche 6 forse. E ormai siamo più di 400 iscritti, con tanti che scrivono e tanti che non lo fanno, o che leggono e basta. E sì, che altro, ci sono stati un po' di dissapori negli ultimi tempi e mi dispiace, però sinceramente non mi piace essere il censore o il questore lì che deve andare a cancellare questo o l'altro. Penso che la prima cosa sia rispetto reciproco e poi altrimenti, ragazzi, basta. Ricordiamo, anche perché è un gruppo che alla fine abbiamo organizzato un meeting a Parma lo scorso maggio e fra 2 settimane e mezzo ci troviamo tutti quanti a Bologna, quindi se non lo sapete, sapete che stiamo organizzando a Bologna il ritrovo per il Thanksgiving per vedere la partita di Brett Favre tutti insieme. Se volete partecipare e non avete ancora sentito niente, saremo ben lieti di avervi con noi, insomma. Esatto. Allora, venendo a noi, che dici? Cominciamo, certo, a parlare, sì, di questo. È ora, parliamo di Packers, parliamo. No, perché l'ultima volta che noi ci siamo sentiti, eravamo 6-0. La difesa era la migliore scoring defense della Lega, la seconda nel numero di sack messi a segno. L'attacco veniva da... È rimasta lì, la difesa è rimasta lì. Sì. L'attacco veniva da un paio di prestazioni un po' così, però tutto sommato le cose procedevano bene, eravamo 6-0, che cazzo, certo, ti lamenti, sì, con un 6-0. Eravamo tutti fieri, tranquilli, insomma. No, abbastanza ora... tranquilli. Diciamo che eravamo come pensavamo dovessimo essere, ecco, quindi... Ora... C'era la nostra fast start, eravamo... orgogliosissimi della nostra difesa e tutto il resto. Ora, dopo 2 settimane, siamo 6-2. Due sconfitte consecutive per la prima volta dal 2010. La difesa ha concesso quasi 1500 yards in 3 partite, San Diego, Denver e Carolina. Il numero di sack, appunto, è rimasto uguale. E l'attacco è ai livelli dei peggiori attacchi della Lega, come statistiche, sì, di cui poi parleremo. E paradossalmente il problema è l'attacco. Ecco, diciamo, perché io pensavo, almeno, okay, io e te lo pensiamo così, insomma, sì, quello voglio dire, quindi... cioè, qualcuno potrebbe anche dire che sia per il fatto che non ho fatto i post della partita nelle ultime due, però no, però visto, per non levarsi il dubbio, domenica lo fai te, perché domenica, quindi comunque, vabbè, che succede secondo te? Non lo so, guarda, allora veniamo da prima, dalla partita di Denver, che tra l'altro il Vise aveva letto benissimo, a parte il risultato finale, ok, Denver ha giocato come si aspettava giocasse, Green Bay ha fatto 2 settimane di bye e basta, non abbiamo giocato. Io pensavo ad una reazione in quelli di Carolina, anche perché la partita di Carolina era una partita importantissima ai fini dell'home field advantage, quello che per giocarsi tutte le partite di playoff in casa, ok? Avendo perso la partita di domenica, io a questo punto vedo impossibile giocarsi un eventuale, perché bisogna arrivarci, ok, ovviamente, un eventuale championship a Lambo. Perché per giocarla, per praticamente adesso siamo 2 partite e mezzo dietro Carolina, e Carolina dovrebbe perdere le 3 e noi vincere tutte. Quindi la vedo un po' difficile. Detto questo, io mi aspettavo una partita molto molto diversa, una reazione soprattutto. Cosa che non c'è stata. La partita è finita da cos'è? 37-29. Ma per me è tutto a un certo punto, garbage, sì, time. Cioè, metà è garbage, eravamo, time. Eravamo a fine primo tempo 24-7 e poi siamo stati 37 a... 14, sì, insomma, sì. Esatto. E poi negli ultimi 9 minuti, in garbage time, possiamo tranquillamente dirlo, ok, abbiamo fatto 2 TD e abbiamo addirittura avuto la possibilità di pareggiarla. Mm-hmm. E non l'abbiamo concluso con un altro errore dell'offensive line e di Aaron Rodgers. Paradossalmente, tu dici i numeri, 1500 yard, concesse 37 punti questa domenica, 29 l'altra, e paradossalmente, insomma, il problema non è la difesa. Mm-hmm. La difesa, sostanzialmente, per come è strutturata la nostra difesa, perché poi potremmo aprire 4-5 parentesi, ok? Ovviamente una difesa che ha 7 prime scelte dovrebbe giocare in maniera diversa, però ragioniamo sul presente, ok? La nostra difesa è concepita in maniera di essere funzionale all'attacco, ok? Quindi in sostanza la nostra difesa non dovrebbe perdere la partita e mettere nelle mani del nostro attacco, che sulla carta dovrebbe essere, anche senza Nelson, uno dei primi 5 della Lega, la possibilità di vincere la partita. È successo che nelle ultime partite la difesa l'ha vinta la partita, e nelle ultime 2, purtroppo per la qualità degli avversari, non ce l'ha fatta. Non lo so dove sia il problema, magari lo sapessi, però non lo sanno neanche dalla parte dell'America. Spero che almeno lo sappiano quelli che lavorano a 12-65 di Lombardia Avenue, e sarebbe un bel punto di partenza. Sì, perché alla fine, appunto, come dici te, noi siamo una squadra offensiva, la difesa deve essere sufficientemente, cioè non deve concedere touchdown ad ogni drive avversario, praticamente. Cioè, se vogliamo fare una specie di rapporto tra l'incidenza che l'attacco deve avere su questa squadra e la difesa, stando conservativi io farei 60 attacco, 40 difesa, per dire. Certo, stando conservativi, appunto. Sì. Sì, ultimamente l'attacco ha contribuito per, sempre numeri a caso, però per rendere l'idea, per il 30-35%, perché la cosa è già iniziata con San Francisco, partita in casa contro, sì, St. Louis, e 30-35%, e la difesa ci ha vinto 2 partite, cioè ha coperto quel 65-70% scoperto, diciamo, contro San Francisco e contro St. Louis, e anche contro San Diego. Sì, ma mentre mi ti interrompo, contro San Louis poteva essere anche la qualità dell'opponente, perché la difesa di San Luis si accoppiava molto bene con noi, ok? Quindi avevamo tutti quanti paura di quella partita, quindi non è che abbiamo dato questa grossa importanza. San Diego comunque è una partita dall'altra parte dell'oceano, dalla parte dell'America, quindi c'era qualche magari aspetto ambientale. Con San Diego abbiamo cominciato a preoccuparci. E infatti già nell'ultima puntata, che era la settimana prima di Denver, dicevamo che sì, la difesa ha concesso quelle 548 yard e tutto il resto, però l'attacco fondamentalmente non riusciva a stare in campo, non riusciva a chiudere i terzi down, non riusciva a prendere i primi down, 3 and out. Io, che sono un nerd di merda, come tu ben sai, come ormai chi ascolta questa roba sa, ho ricavato i dati dei 3 and out delle nostre ultime 3 partite, quindi San Diego, Denver e Carolina. Vuoi che te li dica? Li vuoi sapere davvero? No, però dimmeli. Allora, su 33 drive, e disclaimer, ho tolto, il drive in victory formation a San Diego, contro San Diego, e basta. Vabbè, 33 drive, 12 three and out. La percentuale è 36,36%, che per quanto mi riguarda è un numero mostruoso. Cioè, è mostruoso per l'attacco di Packers, poi diciamo. Sì, sì, sì. Cioè, tu per un terzo delle volte in cui hai la palla non sai cosa farci, non fai niente, esci dal campo, regali praticamente la palla agli avversari dopo un minuto e mezzo, perché quello dura un three and out. Però la difesa non si è assolutamente riposata e non hai fatto quello che devi fare. Considerando che l'anno scorso questo era il miglior attacco della Lega, è abbastanza imbarazzante. Altro dato che può essere interessante e abbastanza sconfortante: la percentuale di conversione di terzi down. Quest'anno noi siamo il 27° attacco nella Lega per percentuale di conversione, al 34%. Il problema è che quando andava male negli anni passati eravamo al 41%. E sempre perché sono un nerd, 2014 47%, 2013 41%, 2012 42%, ovviamente nell'arco dell'intera stagione, 2011 48%, che è stato l'anno di grazia dell'attacco, 2010 42%, e intanto che c'ero ho fatto anche 2009 47%, 2008 il primo anno di Rodgers da titolare 44%. 34% è allucinante. Sì, sì, assolutamente. Cioè, è una una quota d'attacco, è una percentuale d'attacco guidato da Tim Tebow. Forse Tim Tebow ce l'ha migliore come statistica. Scherzi a parte, non lo so, è inconcepibile. Ma tornando al discorso dei three and out, allora tu sei anche Domenica, esempio pratico, sei sotto 24-7 alla fine del primo tempo, ok? Hai la palla ad inizio del terzo, ok? Perché sono due settimane che incredibilmente McCarthy vince il coin toss e sceglie di difendere, ok? E fai touchdown nel giro di un minuto perché viene fuori quel bellissimo gioco con Randall Cobb. Sei 24-14, quindi ampiamente in partita. Esce la difesa, three and out, quindi palla anche sulla posizione abbastanza favorevole, se non ricordo. E tu cosa fai? Niente. Oltretutto, mi pare la difesa conceda un field goal, forse concede nel drive successivo. Sì. Ne abbiamo fatto altri due, mi pare, se non three and out, abbiamo praticamente sprecato almeno due o tre possessi tra terza e quarto senza mettere punti. E non puoi vincere la partita in quella maniera lì. Sì, considero che per esempio, restando domenica, abbiamo avuto 16 drive, visto, cioè, più nerd di così, ragazzi, si muore. Ecco, no, esatto. Nel primo tempo ne abbiamo avuti 8, nel secondo 13. Nel primo tempo, primo drive, punt, three and out, mi pare. Secondo drive, sì, three and out. Praticamente abbiamo fatto 5 primi down nel drive del touchdown, 3 nell'ultimo drive, quello che poi è finito con quel lancio della disperazione short dall'endzone, che anche lì è inconcepibile per una persona, per un quadro come Rodgers, che dovrebbe avere un cronometro e un goniometro in testa, e anche ha dato quella palla lì ad Adams che non aveva nessun significato. Sì, esatto. Quindi nei restanti 5 drive offensivi del primo tempo, 4 sono finiti con 3 and out e uno col fumble di Lacy alla seconda azione del drive. Nel secondo tempo, 9 drive, il primo touchdown di Cobb, come dicevi, poi 4 punt consecutivi. E lì Carolina è scappata, perché poi ci siamo ritrovati a 9-22 dalla fine, sul 37-14, col tuo attacco che ha fatto 2 drive e basta. Per l'amore di Dio, possiamo criticare la difesa? Sicuramente la difesa alla sua parte di colpa, assolutamente. Non è che stiamo qui a dire che la nostra difesa è la difesa di Bears dell'85, anzi. Però se ci vuole quella difesa per vincere una partita del genere, perché sì, altrimenti non vedo come tu possa portare a casa quella parte lì, senza voler indicare che ti trovi a giocare quella partita senza il tuo cornerback numero uno e il cosiddetto numero due Hayward esce quasi subito, il Ter sta giocando come il numero uno perché Randall sta giocando in maniera, insomma, stupenda, strepitosa, sì, ok? E ti trovi a giocare con Goodson, che è non so come chiamarlo, Goodson, sinceramente, ma al massimo uno special teamer come secondo cornerback. Mm-hmm. Quindi, perché mancava anche Rollins, ovviamente. Quindi la difesa poi, che non nelle ultime due partite e mezza, tre partite, non sta più portando la pressione che portava all'inizio. E anche lì ce ne sarebbe da parlare, però... Cioè, voglio dire, se l'attacco girasse a livelli decenti, perché i numeri che abbiamo citato non sono numeri decenti, non sono numeri appunto neanche da, non so, dimmi una squadra scarsa, Jaguars, così già ne si incazza. Se girasse a livelli decenti, cioè metà della classifica, diciamo, del ranking, potremmo dire saremmo 7-1, sì, tranquillamente, magari, perché e l'avresti fatto da casa. Per cui, cioè, per dire, e non so, poi magari mi sbaglio io, è stata la mia impressione, però come ti dicevo anche prima che cominciassimo a registrare, riguardando il primo tempo dell'attacco, per un buon quarto e mezzo, alla fine non è che ci fosse tutta questa pressione addosso a Rodgers che non riuscisse a neanche prendere lo snap, ci sono stati errori, letture sbagliate da parte di Rodgers, lanci sbagliati da parte di Rodgers, come quello sulla bomba per Cobb, che sì, di solito mette anche ad occhi chiusi. Esatto. Ci sono state, che ne so, in un'azione su un, mi pare fosse un secondo down, comunque c'era nel flat Lacy liberissimo con 15-20 yard di vuoto davanti, lui invece ha servito Adams sulla sideline per una comeback e l'ha mancato. C'è stato bunch formation con Bredaris, si libera nel flat in pratica con un quick out verso la sideline, Rodgers lo guarda, vede che comunque aveva un cuscinetto di 5-7 yard con il primo difensore, si gira dall'altra parte, corre e guadagna una yard per quello che poi è diventato un terzo e 17. Queste cose qua obiettivamente hanno fatto sì che Carolina scappasse, perché loro invece quando prendevano la palla effettivamente segnavano. Noi non l'abbiamo Vabbè, fatto. tu sei trovato avanti 7-3 ad inizio del secondo quarto, e qui ecco nota di merito della difesa. Difesa, tra l'altro, forza un terzo e 16, mi pare abbia forzato proprio in quel drive. Ovviamente, qui ovviamente, è la mano di Gadon Capers, pressione a tre uomini, lettura sbagliata di Clinton Dix, e lasciamo una ricezione di 50 passi a Jericho Cocheri, che non la faceva dal 1934, forse, una Che poi cosa del tra l'altro genere. ha fatto anche il furbo Capers perché subito aveva messo 4 a rushare, solo che dopo ha mandato in pratica, cioè la chiamata era che Peppers si allenasse sulla Ah. linea di scrimmage per poi andare in coverage. Perché? No, No, non ha beh, senso. là, vabbè, resteremo qui ore senza darci una risposta. Però voglio dire che a metà del secondo quarto noi eravamo ancora avanti 7-3, poi lì è crollato tutto. Sì. Però tu hai dato una lettura oggi nel gruppo, sinceramente, per quanto riguarda cose che stiano succedendo a Green Bay e nel coaching staff, se vuoi ripeterlo, e sperando che abbiano un senso e qualcosa, anche se io penso, e qui chiudo tutto quanto il discorso attacco, ok, che il problema sia soprattutto mentale da parte di Rodgers, perché non è concepibile che un giocatore del suo calibro possa giocare così male. Noi abbiamo parlato di bestemmiare in chiesa, stiamo bestemmiando in chiesa, perché non è possibile che un giocatore che si è abituato per anni, 7 anni, a giocare in un livello strepitoso stia giocando al 10% delle sue qualità. Sì, diciamo che sarebbe il momento in cui deve dare quel guizzo in più quando la squadra non è alla sua altezza, diciamo, perché obiettivamente l'anno scorso la squadra era tutta alla sua altezza. Avevamo una linea offensiva della Madonna, avevamo dei ricevitori della Madonna. Quest'anno no, Rodgers sta risentendo di questo, ci sta, è umano anche lui. Infatti noi abbiamo praticamente sdoganato le bestemmie in chiesa perché abbiamo cominciato a No, criticarlo, forse si è quindi abituato troppo bene, forse, però sì. perché è vero, poi ci sarebbe da parlare un giorno e mezzo di Lacy, di quello che sta succedendo, e secondo me no, non lo sa nessuno quello che sta succedendo, cioè, almeno lo sanno solamente i diretti interessati, ma non sta uscendo niente dal Lambeau Field su queste cose qui, quindi sono tutte quante voci e azioni. E tra virgolette, secondo me Lacy non è per niente grasso, sarà magari fuori forma, ok, è un altro paio di mani, ma secondo me Lacy mi pare assolutamente uguale a come era negli altri anni. Okay. Potremmo parlare della prova dell'offensive line. L'offensive line che sta giocando a livelli impietosi di quando avevamo Tony Moll, Jesse Spitz in linea, forse. Linsley ha fatto, come hai detto te, la prima partita da rookie dopo un anno e mezzo, che ci sta, può anche starci. Sitton ha concesso delle cose che non concedeva, o che ne concedeva uno in 3 anni, ne ha concesse tre in 3 settimane. Di ricevitori non sarei l'ultimo che verrei a criticare, sinceramente, perché comunque domenica hanno dimostrato di esserci e di lottare, comunque, dopo che non siano Larry Fitzgerald, Anquan Boldin o Randy Moss, un altro paio di maniche, però loro hanno ce l'hanno messa tutta. Poi ovviamente c'è il discorso Abrederis e Janis, che lasciamo Lì stare, perché resterà un mistero resterà ancora un per molti, perché mistero, secondo me. perché se Janis non gli piace e non ha fiducia, in teoria per Abrederis ha sempre avuto bellissime parole Rodgers, però comunque non gliel'ha mai data. Quindi adesso, anzi, adesso che rientra Montgomery, ci troviamo con 6 wide receiver a roster, vediamo Poi arriva anche cosa Quarles fare. fra un po', che Esatto, vediamo adesso cosa succede. praticamente per come sta giocando il povero Richard Rodgers, che per carità ha fatto 2 touchdown, però non è un tight end da No, ha giocare il fatto, mi 90% degli pare abbia snap. fatto 19 yards, mi pare. Due Mi pare ci touchdown fosse per una. carità, però. Ecco, ti interrompo, mi una statistica che uscì dal giorno dell'infortunio di Finley, quindi andiamo nel 2013, mi pare sia, quando nessun tight end dei Packers ha ricevuto più di 70 yard. Che poi, per l'amore di Dio, Rodgers probabilmente migliorerà sicuramente, e forse uno dei problemi di cui, tanto per trarre una giustificazione, è il fatto che è sovrautilizzato. Magari invece di giocare 60 snap, 55 snap e 70 snap, potremmo fargli giocare nella metà e magari sarebbe più fresco, però. Infatti, paradossalmente sembra quasi che aspettiamo il ritorno di Quarles come il salvatore, quando in realtà, se non è Esatto. just a guy, è un po' di più, insomma. Esatto. Mi è piaciuto, ovviamente ha fatto un'ottima partita davanti a Adams, Sì? che insomma, ha fatto qualcuna delle tracce che di solito faceva Nelson, insomma, le comeback, passaggi sulla sideline, eccetera. Lui obiettivamente aiuterà. Non si spiega perché praticamente metà del parco ricevitore non venga considerato. E ha giocato male anche Kun domenica, perché nel primo tempo soprattutto era spesso, diciamo, in campo. Ha mancato dei blocchi e... Anche lì, cioè, li ha mancati, poi c'erano anche le mancate, proprio non c'era, ed è mentale lì l'errore, non può essere tecnico, perché è un giocatore che è in campo solo per quello, perché, per dire, fa questi errori, quindi, boh, non lo so, guarda, è veramente strano, però, cioè. Sì, comunque per ricapitolare quello che ho scritto stamattina nel gruppo, visto che l'abbiamo citato, fondamentalmente pare che si stia cercando di cambiare rotta per quanto riguarda la catena di comando in attacco. Per cui McCarthy ha cominciato di nuovo a tenere i fogli giganti con i giochi sulle sideline, ha cominciato a Denver, l'ha fatto anche contro Carolina. E Van Pelt dal boot adesso invece sta sulla sideline, è praticamente il coach che si occupa di parlare con Rodgers tra un drive offensivo e l'altro. McCarthy ha dichiarato che probabilmente ha dato troppa responsabilità a Clemens. La mia interpretazione era che si cerca di depotenziare il ruolo di Rodgers nel play calling. Praticamente la mia cosa è Rodgers ha preso il sopravvento su Clemens e praticamente decide lui. Un'altra cosa che, per esempio, non avevo scritto stamattina, perché mi sono dimenticato, insomma, era che sia dopo Denver che dopo Carolina, in conferenza stampa, McCarthy ha detto più o meno le stesse frasi, che erano: non abbiamo eseguito il game plan che avevamo deciso in settimana. Che può essere una frase come un'altra, però può anche essere una cosa del tipo: io avevo dato l'assenso a fare determinate cose in campo e poi questi ne hanno fatte un'altra. Altre Cioè, cose, insomma. è anche vero che Rodgers domenica, a differenza di altre volte, si è assunto le responsabilità della sconfitta. Una cosa che io, adesso parliamo di, ho sempre criticato a Rodgers era il fatto che, una delle poche critiche che gli puoi portare, ovviamente, che nei momenti, cioè lui dovrebbe essere il leader, quello che si assume anche di responsabilità anche se non ce le ha, ok? E non era successo, come non era successo dopo il Championship, ma non era piaciuto molto personalmente quello che aveva detto. Domenica ha fatto una cosa che a me è piaciuta, perché per l'amor di Dio, lui è, secondo me, una delle cause della sconfitta e si è assunto la responsabilità, ha fatto una cosa da leader, secondo me. Sì, anche se effettivamente come giustificazione ho avuto paura di qualcosa, insomma, non so neanche se possa essere ritenuto un buon segno, Ed insomma. è secondo me il problema, che il problema è mentale. Sì, tra l'altro quella lì era una bellissima azione per come era stata Bellissima, disegnata. assolutamente sì, bellissima, eccezionale. Allora, infatti, secondo me è anche della sua reazione, la reazione poi al touchdown di Cobb ha avuto una esultanza smodata per quello che poteva essere il momento e il risultato della partita. E il fatto che prende il tablet e lo getta per terra. No, che non abbia i soldi per ricomprarlo, però comunque è un gesto di frustrazione. E quindi, secondo me, io lo vedo un problema mentale. Speriamo che Olivia Magni la dia di più o che la dia di meno, non lo so, però che ne venga fuori, insomma. Sì, poi vabbè, ovviamente come hai detto anche prima, di Lacy non si sa neanche più cosa dire, per cui No, possiamo soltanto dire che praticamente ormai è esatto. diventato il backup. Sì, a questo momento sì, a questo momento sì. Magari gli fa bene, magari 2 settimane fuori, fai il backup e magari rifresco a gennaio e fai il disastro, speriamo. Sì, anche perché comunque a gennaio bisogna esserci a giocare, per cui Eh beh sì, eh. non diamolo Beh, per scontato. siamo ancora pienamente in corsa, noi siamo facendo grigia, però siamo ancora pienamente in corsa per essere a gennaio, quindi Sì, no diciamo dai, che due parole. quello che fa, scusa, quello che No, no, no, fa, vai, vai. tra virgolette, male è il fatto che il punto di forza della squadra adesso sembra essere diventato il punto debole, l'attacco. Perché la difesa alla fine è sempre quella, cioè nel senso, bend on break, ci ha Sì. vinto due partite e ci siamo esaltati, però non sarà mai appunto Bears 85 o Ravens 2000 o quello che è, insomma, o Certo. Seahawks 2013. L'attacco è molto sotto alle proprie potenzialità. Io poi, come provocazione, avevo anche scritto: a questo punto l'MVP 2014 non doveva essere Rodgers, ma Nelson. Nel senso, manca Nelson e questo attacco qua fa cagare perché non c'è la deep threat, quindi le difese non rispettano il gioco profondo e quindi mettono tutti in... È una provocazione, per carità. Però... Beh, lasciamola lì, e lo dice uno che ha alla maglia di Nelson sempre fuori, quindi no, dai, non perché... No, due parole sulla difesa, dai, dopo vediamo, senza dilungarci tantissimo. La difesa, cioè, la difesa ovviamente ha le sue parti di colpe, ok? C'è stato anche quell'episodio nella sideline con Dix che sembra abbia detto qualcosa a Peppers, Raggi che arriva, lo spinge via. Dix, che tra l'altro ha giocato la peggior partita della sua carriera, domenica non ne ha combinata una di giusta, se può dire, ok. Sì. E, al momento ero preoccupato. Quante se l'è preso Randall sul touchdown concesso? No, vabbè, cioè, per Randall, cioè, penso che siamo a livelli assurdi. Quindi non voglio neanche parlare di questa cosa qui. Randall ha fatto una copertura sul lancio di 50 yard, cioè non lo puoi neanche cioè, non puoi difendere meglio di così. Come puoi? La palla è caduta in mano e l'ha ripresa, ha fatto un gran numero, ci sta che gli altri facciano la giocata della domenica o comunque che facciano il loro lavoro. Beh, io parlando al litigio sulla sideline, io al momento ero preoccupato, poi andandoci a ripensare e vedendo anche le reazioni dei diretti interessati, ok, ho visto anche lì come molto frustrazione, l'ho vista anche io, nel senso, come cose che non gli vengono più fuori, e cercavano magari Dix, magari ha cercato di dire una parola in più a Peppers per cercare di, non lo so, di scaldare, non so come si possa dire, fire up, esatto, non so neanche che faccio dire in inglese, fate in italiano, e magari sono mal interpretato perché il momento ovviamente era molto negativo. Fatalità è che da quel momento lì avevo cominciato a giocare meglio, tra l'altro, quindi non andrei a vedere una cosa molto grave su quelle cose. Ovvio che se si ripete mi preoccuperei di più, ecco. Diciamo che erano segni di vita che provenivano da una squadra che era sotto di molto e che non dava segni di vita. Sì, segni di vita che per esempio non erano arrivati da Denver, sarà per l'altitudine, esatto. Non lo so. Domenica ha praticamente segnato il passaggio da Nate Palmer a Jack Ryan, possiamo dirlo? Speriamo. Jack Ryan che in metà partita è stato il leader tackle di Green Bay, perché ha messo a segno 10 tackle, ok, e più che altro è sempre stato attorno alla palla, non è mai sembrato fuori posizione. Io a questo punto, cioè, per più che altro per l'upside che ha Ryan rispetto a Palmer, andrei pure a sopportare qualche errore da rookie che potrà fare, però comunque, cioè, non vedo come Palmer possa tornare a giocare lì. Vorrei dire, spendere un ulteriore parola per Randall, che ha fatto quella giocata sull'intercetto spaziale, tra l'altro, quindi seconda settimana consecutiva, tra l'altro, ok? Ricordiamo che è un rookie che ha giocato safety negli ultimi 2 anni, un anno e mezzo, e quindi sta ancora imparando il ruolo, ok? E basta, la difesa c'è poco altro da dire, cioè, forse si è salvato McDaniels, Clay Matthews forse mezzo infortunato non si è sentito più di tanto, non so cosa potrei salvare altro. Per dire, io volevo menzionare gli special teams, passando quindi al terzo aspetto del gioco, perché secondo me sono la prova provata del fatto che spesso e volentieri schemi, coordinatori, allenatori, menti tattiche servano meno del personale in campo, quindi che conti più il personale in campo, perché Zouk c'era anche l'anno scorso, non era il coordinatore ma era il vice, però non penso che abbia apportato degli stravolgimenti radicali a come venivano fatte le cose dall'anno scorso a quest'anno. Però questi special team non sono più un punto debole della squadra, sono anonimi e quindi quando non le parli va bene. Sì, non ci sono costati partite, non ci sono costati drive. Le uniche cose che si possono citare sono errori individuali, che ne so, Gunther con le 2 penalità domenica, Goodson su quella finta di punt di St. Louis, però cose individuali, e poi vedremo se continuerà così, per carità. Speriamo. Non sto dicendo, abbiamo fatto solo metà stagione ancora, o già metà stagione, dipende come... Tra l'altro. L'unica cosa che... notato riguardando le azioni degli special team è stato un Elliott non particolarmente ispirato, cioè sembrava quasi che non avesse voglia. Per dire, primo calcio di Crosby a inizio partita era abbastanza corto, basso, insomma il ritornatore non ha incontrato nessuno fino alle 20 yard. Quando ha incontrato qualcuno era Elliott, che è arrivato al piccolo trotto, praticamente lento, soft. Avrebbe potuto fare il tackle sulle 21, ha semplicemente allargato il braccio come avrei fatto io, e questo ritorno è arrivato sulle 30. Un'altra volta Elliott ha perso l'uomo su un ritorno di kickoff di Hyde. Hyde avrebbe guadagnato probabilmente 40-50 yard perché aveva. C'erano stati due blocchi bellissimi di Ripkowski, che sai che io cito sempre, e come non citarlo stavolta. E Ryan più un blocco downfield di Janis, lui si è perso l'uomo e il ritorno è finito. Per cui l'ho visto abbastanza poco ispirato. Ludovico ci aveva chiesto di parlare anche della prestazione dei rookies. Siamo anche a metà stagione, per cui potremmo, oltre che parlare di come si sono comportati i rookies domenica, che un po' ne abbiamo già parlato di Randall, di Ryan, potremmo parlare del primo bilancio, diciamo, dopo metà stagione della Rookie Class 2015. Allora, Randall sta giocando, per quanto mi riguarda, e anche per te, come hai detto prima, da Dio. Fa ancora rookie mistakes, per carità, ci sta, però io non so come possa, cosa ci si possa aspettare di più da un rookie che giocava safety e che adesso sta giocando cornerback esterno nell'NFL. Dopodiché, Rollins, prima dell'infortunio, anche lui stava facendo il suo in un ruolo comunque ancora limitato, perché faceva, se non ricordo male, lo slot corner nella nickel o nella dime. Esatto. E forse ha giocato anche qualche snap all'esterno, mi pare, ma insomma niente Poca di roba, secondo me. interessante. Ty Montgomery era diventato parte integrante dell'attacco prima anche lui dell'infortunio, per cui penso che ci si possa aspettare cose positive anche da lui quando ritornerà. Sì, beh, sento che mi pare che Ty Montgomery sia in prospettiva un bel giocatore da avere nel roster. Ripkowski è l'idolo incontrastato delle folle di tutto il mondo, per cui non c'è nient'altro da dire. No, dovrebbe giocare di più, magari. Sì. Ok. Ryan, abbiamo detto, finora è stato usato poco, a parte nell'ultima partita, ma ha un upside clamoroso. DeAndre si può dire solo che ha fatto una grande preseason, per cui. Sì, beh, non penso che potremmo dire niente di più, anzi, spererei di non voler che non dobbiamo dire niente di più fino a marzo, ma aprile, quindi Sì, solo. Ringo siede nella practice squad, quindi è ingiudicabile, forse è giudicabile, cioè non è stato all'altezza del posto roster, però in generale io penso che E tra le poi prime otto Bachman. partite. Ah, Bachmann, Bachman. giusto, pensa, me l'ero scordato, quindi vuol dire che non ha lasciato molto il segno. Allora, in tutto questo noi ci siamo concentrati solo su noi stessi, sui nostri problemi, e intendo sui Packers, non su me te. E là ce ne sarebbe da parlare per giorni. Però Esatto. domenica si gioca ancora e si gioca in casa Lambo contro i derelitti quest'anno Detroit Lions, che sono 1-7, hanno casini nel front office e nel coaching staff, non vincono a casa nostra dal 1991, 23 partite, e mio commento tecnico, vanno asfaltati. Sì, però io di un tecnico mio non poteva capitare partita peggiore, perché hai tutto da perdere. Sì. Perché se vinci sugli asfalti, hai fatto il tuo dovere come te lo ti aspettavi. Se li vinci all'ultimo secondo o con una prova non convincente, non hai risolto nessun dubbio. Se perdi, non te lo dico neanche cosa succede. Quindi, sinceramente, cioè, c'è poco da guadagnare. Quindi, cioè, portiamo a casa la W e basta. Peraltro noi parliamo poco e in coda della partita di domenica perché il vero problema siamo noi, cioè è inutile stare a tra virgolette, perdere tempo parlando degli avversari, a parte che li conosciamo perché comunque li affrontiamo due volte all'anno. Però se non risolviamo le nostre magagne è inutile stare a pensare ai match-up, a chi hanno No, loro, a no, come ci possono mettere in difficoltà, il problema giusto? dei Packers sono i Packers. Sì. Cioè, quindi c'è. Cioè, Diciamo il problema dei Packers sono i che. Packers. Basta, punto. Se noi ci troviamo, basta. Sappiamo già dove finiamo. Sì, Quindi. ovviamente non capiremo se ci stiamo ritrovando domenica, perché anche se vinciamo di molto, sarà semplicemente aver fatto i forti con i deboli dopo aver fatto i deboli con i forti. Per cui. Esatto, e tra l'altro la partita di domenica, sì, ovviamente siamo strafavoriti, però troviamo una squadra che viene dal bye, ok, che ha avuto un cambio nella dirigenza e un cambio nel coaching staff. E sappiamo che in America queste cose qua magari nell'immediato danno subito dei risultati, magari dopo alla lunga no, però alla lunga nell'immediato una reazione la provocano. Quindi io un po' di timore ce l'ho, dopo per l'amore di Dio, Allora, bisogna io vincere. faccio il mio pronostico e questa volta sarà un pronostico non basato su dati reali. Il mio pronostico è vinciamo 50-0. Punto. Dimmi tu. Non lo so, non c'è la prossima settimana, non ci ho pensato, sinceramente. Vinciamo, però non vinciamo così largamente, secondo me. Vinciamo 24-7. Beh,